Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro appuntamento con la rassegna stampa dei settimanali, dei periodici italiani e no in edicola in questo periodo. Voglio cominciare con una domanda: voi vi fidate dell'informazione, voglio dire dei giornali, della radio stessa, della televisione? Lo chiedo perché questa settimana compaiono due riprese di una vicenda che forse avete intercettato, ma forse no, sui quotidiani, cioè il rapporto di Freedom House, curiosamente si traduce Casa della Libertà, ma in realtà non ha nulla a che vedere con il riferimento partitico nostro nazionale, il rapporto, dicevo, di Freedom House sulla libertà di stampa in Italia. E che cosa ha detto questo rapporto? Ha detto che la stampa italiana è libera, ma solo in parte, perché ci sono dei condizionamenti. Il risultato è attribuito in generale alla stampa, ma può essere esteso facilmente anche agli altri mezzi di informazione. E la cosa mi è tornata alla mente perché da una parte su Famiglia Cristiana e dall'altra sul magazine del Corriere della Sera che avete visto giovedì ci si occupa proprio di questa notizia, ci ritornano Angelo Panebianco per il magazine e Adriano Sansa per Famiglia Cristiana. Hanno due letture direi opposte della vicenda. Vi do prima l'indicazione che ne dà Sansa, dice non è oro colato ma solo un'organizzazione indipendente americana che si occupa della libertà di stampa nel mondo, questa Freedom House. Però fa pensare, dal momento che non ce l'ha con noi, mette la Russia autocratica tra i paesi più feroci contro il giornalismo libero, questo certamente dicendo il vero. Ma questa Freedom House appunto si preoccupa anche a proposito dell'Italia. Siamo l'unico paese dell'Unione Europea, secondo questa classifica, insieme con Bulgaria e Romania, ad aver passato il confine tra liberi e parzialmente liberi, finendo tra i secondi. Questo è il riferimento che ne dà Adriano Sansa. Siccome la democrazia ha nell'informazione una delle sue colonne, bisogna riflettere. Come accorgersi di un male così insidioso? Molte cose non ci vengono dette, così non ci rendiamo neppure conto di non saperle. I grandi giornali sono in buona parte proprietà di editori impuri, cioè che fanno altro e concepiscono la carta stampata come strumento di potere, ma di sicuro molto dipende dalla coscienza morale e dal coraggio dei giornalisti, i quali però non possono forzare più di tanto la situazione. Certi articoli, inchieste scomode, non vengono sempre sollecitati né pubblicati. Direttori e capi redattori sono esposti a loro volta a pressioni. Il circolo virtuoso che viene auspicato da Sansa, cioè più che l'ordine professionale, dice, potrebbe aiutare i giornalisti un'alleanza morale, un orgoglio professionale condiviso, sostenuto dai lettori. Ma questo circolo virtuoso per ora non si vede, la ricerca dell'obiettività non interessa i molti cittadini faziosi. E invece di un circolo virtuoso, conclude Sansa, un circolo vizioso ci avvolge, ci abbandoniamo pigramente e con più crudezza si potrebbe dire che non sente il proprio cattivo odore chi non è pulito. Quindi un commento preoccupato a questa indicazione di questa organizzazione indipendente americana che ha giudicato il nostro livello di informazione non completamente libero. Ma di una lettura completamente opposta è Angelo Panebianco. Liberi di stampa o no? È la domanda che titola l'editoriale di Panebianco su Magazine che abbiamo visto giovedì. Un rapporto di Freedom House sostiene che lo stato della nostra informazione è a livello del Benin e di Tonga. Un altro suo rapporto dice che siamo un paese pienamente democratico, ma il secondo è molto più affidabile del primo. Spiega Panebianco che questa Freedom House pubblica due rapporti. In realtà il primo, che è quello davvero importante, riguarda lo stato delle democrazie e si considerano molti aspetti, non solo la libertà di stampa. Sulla base di questo rapporto l'Italia anche nell'epoca di Berlusconi è giudicata paese libero, paese pienamente democratico. Da alcuni anni Freedom House pubblica però anche un secondo rapporto dedicato solo alla libertà di stampa. È in questo rapporto, scrive Panebianco, e solo in questo, che l'Italia figura oggi come paese parzialmente libero. C'è dunque un'apparente incongruenza. Se si vanno poi a leggere le motivazioni per cui saremmo, quanto a libertà di stampa, un paese parzialmente libero, si scopre che vengono citate cose disparate e disomogenee, come la presenza di organizzazioni criminali in certe zone, l'aumento del ricorso ai tribunali per cause di diffamazione e, naturalmente, Berlusconi. Di lui si dice testualmente che, ritornando al governo, ha rinfocolato le paure sulla concentrazione di mezzi di informazione statali e privati nelle mani di un singolo. Ma rinfocolare paure, avverte Panebianco, non è un criterio oggettivo. Il problema del rapporto Berlusconi-televisioni esiste certamente ed esiste da quando egli è entrato in politica. Da qui a farci supinamente accettare l'idea che l'Italia, quanto a libertà di stampa, sia sullo stesso piano di Tonga, ci corre assai. Semplicemente non è così. Quindi due pareri diametralmente opposti sulla stessa notizia. L'uno, appunto, condivide la preoccupazione, l'altro la circoscrive e la contesta decisamente, questo secondo di Panebianco sul Magazine. Proseguiamo nella speranza che voi vi fidiate del livello di informazione che vi stiamo dando adesso. E allora cambiamo decisamente argomento, appunto sempre nella speranza che voi ascoltatori vi fidiate comunque del livello di informazione che ci sforziamo di fare. Vediamo che cosa pensano le donne della crisi economica. È un'inchiesta che ha fatto Donna Moderna con un sondaggio, Donna Moderna di questa settimana, la crisi economica vista dalle donne e vista dagli uomini. Il dato interessante è sulle aspettative di uscita dalla crisi economica, perché sono più preoccupate le donne che sono state sentite per questo sondaggio di Donna Moderna che non gli uomini. Le italiane, avvisa il settimanale nell'articolo che è firmato da Maurizio Dalla Palma, pensano che la situazione peggiorerà, sono il 43% contro il 33% dei maschi. Hanno molta paura di perdere il lavoro, il 51% contro il 29% dei maschi, e persino per avere un figlio aspetterebbero tempi migliori, il 44% contro il 33%. Il sondaggio contiene poi altri esempi di questa preoccupazione maggiormente avvertita dal pubblico, dalla parte femminile del paese, piuttosto che da quella maschile. Infatti già le donne sono più prudenti sull'uscita dalla crisi, contano che finisca nel 2010 solo in 4 casi su 10, gli uomini sono quasi 5 su 10. La preoccupazione, il livello di preoccupazione è molto elevato, 72% per le donne, 68% per gli uomini, e diciamo c'è anche una certa difformità, però nella molto carina da segnalare, perché la domanda è: se le donne avessero più potere nell'economia e nella finanza, lei pensa che la crisi sarebbe esplosa lo stesso? Secondo le intervistate, solo per il 45% dei casi sarebbe esplosa, invece per la maggioranza, anche se una maggioranza non schiacciante, la crisi non sarebbe esplosa. E poi ci si aspetta un peggioramento del situazioni economiche della famiglia nel 43% dei casi quando rispondono le donne, nel 33% dei casi quando rispondono gli uomini. Ci sono molte altre domande, vi do qualche spiegazione che viene riportata da Maurizio Dalla Palma nel suo articolo. Le donne, senza bisogno di numeri e grafici, hanno capito la sostanza. La spiegazione viene fornita nell'articolo da Loretta Napoleoni, che è un economista. La ripresa delle borse, questa è la sostanza, potrà anche arrivare presto, ma chi ha perso il lavoro faticherà non poco a ritrovarlo, con le inevitabili conseguenze per famiglia, tenore di vita e progetti. Il nostro sondaggio mostra che le donne sono le più nervose e depresse. Eppure il vento può girare rapidamente. Negli ultimi 2 mesi la depressione collettiva ha lasciato spazio alla speranza. In gennaio, infatti, gli ottimisti erano pochissimi, 29 su 100. In aprile sono saliti a 38 su 100, dice Enrico Finzi, che è presidente della società di consulenza Astra. Ma le donne, appunto, sono quelle che stentano a crederci, cioè a ritrovare ottimismo. Per capire il perché bisogna scavare in problemi vecchi e nuovi del mondo femminile, a partire dalla paura di perdere il posto, una preoccupazione legata alla qualità dei nuovi lavori femminili, perché spesso, come è noto, insomma, si tratta anche di impieghi precari, impieghi che prevedono poche ore, anche poche ore in una settimana. Quindi questo tipo di impieghi può subire più decisamente il morso della crisi e mettere in una condizione peggiore al momento di ripartire. E una cosa assolutamente femminile, prima di fermarci per le informazioni sul traffico, la moda, se così si può dire, o la tendenza che sta prevalendo presso le adolescenti alla chirurgia plastica per avere un seno nuovo. Questa è un'inchiesta che avete visto, forse avete visto su Magazine di giovedì. Compio 16 anni e papà mi regala un seno nuovo. Sono giovani, si sentono brutte e scelgono il bisturi. Un'inchiesta montata come un film racconta storie di ragazzine, ma anche ragazzini, che vogliono cambiarsi i connotati. Il magazine Corriere della Sera ne anticipa un capitolo, il capitolo appunto di questo volume Appena ho 18 anni mi rifaccio, storie di figli, genitori e plastiche. L'autrice è Cristina Sivieri Tagliabue. Un'indagine giornalistica in cui appunto si spiega questa tendenza che sta emergendo, che si sta consolidando presso i teenager, cioè gli adolescenti e soprattutto le adolescenti, a modificare i propri connotati, specialmente per quanto riguarda certi connotati particolarmente femminili. Il capitolo che poi viene riportato è molto efficace nel descrivere appunto prima il disagio e poi invece il sollievo di una delle protagoniste, che ha potuto aumentare di qualche misura il suo seno. La psicoterapeuta però Maria Rita Parsi, che viene ospitata insieme a questa anticipazione del libro, avverte che in realtà si sentono poi brutte anche le miss, cioè il sentirsi brutti è un po' anche una condizione connessa a questo periodo, e quindi si sentono brutti nonostante manchino reali anomalie, e si rivolgono spesso al chirurgo estetico più per curare questo tipo di disagio che non per una reale bruttezza. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Da ieri avete trovato in edicola, potete trovare in edicola il mensile del Sole 24 Ore, il numero di maggio è dedicato a una copertina dedicata alle paure che in qualche modo stanno connotando queste ultime settimane, questi ultimi tempi. Il titolo è Benedetto Suino, con un riferimento chiaramente alla influenza messicana, influenza A o comunque vogliate chiamarla. Il crack, i pirati e ora la peste. Sono le porte dell'apocalisse o l'occasione per riscoprire qualcosa della nostra cultura? Questo è il servizio di copertina su Il. Sul numero però, come sempre, ci sono parecchie cose. Io ve ne suggerisco qualcuna, ve ne segnalo qualcuna, poi lascio a voi il piacere, il gusto di scoprire gli altri contributi che costellano questo numero di maggio di Il. Ad esempio, è molto interessante una corrispondenza da Sarasota, Pirati per legge. Si racconta di un curiosissimo mestiere, quello dei pignoratori di yacht. Abbiamo parlato in qualche occasione dei lavori un po' infelici. Questo è decisamente un lavoro curioso, ma davvero non infelice. Che cosa succede? A causa della crisi, appunto, ci sono dei debitori che non pagano e quindi scattano i pignoramenti. Scattano molto più facilmente negli Stati Uniti che non da noi, per le differenze normative che esistono tra noi, appunto, e gli Stati Uniti. E ci sono anche degli specializzati che si incaricano di recuperare con estrema rapidità e prontezza gli yacht che chiaramente i loro proprietari non hanno grande voglia di consegnare. Nell'articolo si descrive appunto uno di questi blitz. Ore 16:29 scatta il blitz, ogni secondo è importante, può essere un lavoro rischioso, avvisano i pignoratori di yacht. Da queste parti infatti tutti hanno una pistola, e quindi c'è una manovra di accerchiamento che viene descritta appunto come da mare e da terra per entrare in possesso dello yacht. Ogni secondo è importante, si legge nell'articolo su Il, in un'operazione di snatch and grab, come viene chiamata in gergo, suona come prendi e scappa, specialmente se la lista di barche da confiscare è lunga. E la Florida è seconda solo al Nevada per pignoramenti di immobili, e anche quelli di automobili vanno forte. Ma i debitori in difficoltà di solito fanno di tutto per conservare una casa o una macchina, mentre le barche sono le prime a venire sacrificate in tempi di magra. Ecco perché questo paradiso è diventato anche la capitale dei pignoramenti sul mare, e alla National Liquidators, si chiama proprio così, proprietà. Le commesse sono schizzate dalle 2100 del 2007 alle 3300 del 2008. Poi l'articolo prosegue con il resoconto puntuale di questo pignoramento. Vi segnalo che un pignoratore di barche guadagna circa, si legge qui sempre su Il, $200 al giorno. Questo uno degli spunti che trovate su Il. Ancora su Il una cosa interessante, qualche numero che riguarda le coltivazioni biologiche. Nella sezione intitolata Green Report si scopre che l'Italia è ai primi posti nel mondo, se non proprio al primo, per coltivazioni, estensione delle coltivazioni organiche di grano, cereali e di agrumi. Figuriamo davanti agli Stati Uniti per il grano, ancora davanti agli Stati Uniti per i cereali e davanti a Cuba per quanto riguarda gli agrumi. Per gli agrumi siamo, diciamo, primi assoluti, perché l'estensione che ci viene assegnata è di 22.000 ettari e Cuba si colloca a 4.000 ettari, quindi abbiamo un ampio margine di vantaggio, una vocazione organica al biologico che ha preso molto piede quindi nel nostro paese, come viene testimoniato da queste cifre. Ancora su Il, ma cambiando completamente argomento, anzi con una sorta di contrasto tra l'organico e l'energia atomica, c'è un doppio contributo di particolare interesse. Da una parte una testimonianza recuperata da Robert Millikan. Nel 1923 il premio Nobel per la fisica Robert Andrews Millikan profetizzò che l'uomo non sarebbe mai riuscito a sfruttare l'energia dall'atomo. Disintegrando gli elementi che compongono il mondo, disse Millikan, l'uomo non potrebbe trarre alcuna energia. Tra l'altro Millikan è un fisico molto importante e firmò, si riferisce qua su Il, il celeberrimo esperimento della goccia d'olio per misurare la carica di elettrone, ed è una delle costanti fondamentali della fisica moderna. Nel 1929 poi Millikan si corresse, però solo in parte. L'energia ottenibile dalla disintegrazione dell'atomo potrebbe forse mantenere in forma per un po' l'uomo che vende nocciolini all'angolo, ma niente di più. Beh, la previsione non è stata, come dire, molto felice. Ma ancora in materia di atomica, e a contrasto, proprio sulla stessa pagina di Il, un miracolato dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Il signore in questione si chiama Tsutomu Yamaguchi e il 6 agosto del 1945 era a Hiroshima per una trasferta di lavoro, perché era un progettista di petroliere, e quel giorno finì sotto la prima bomba atomica della storia, sganciata appunto da Enola Gay. Se la cavò con qualche bruciatura, venne ricoverato, due giorni dopo fu rimandato a casa, ma abitava a Nagasaki, dove tornò giusto in tempo per trovarsi nel suo ufficio la mattina del 9 agosto, quando esplose la seconda bomba atomica della storia. Quindi una sorta di beffarda rincorsa che, per fortuna, ci fa piacere segnalare, per lui finì bene, perché ciò che risulta ancora più incredibile, leggiamo da Il, è che il suo fisico non subì danni a causa delle radiazioni. Oggi questo signore è un arzillo 93enne che lamenta solo una leggera sordità a un orecchio, una fortuna decisamente sfacciata, considerata anche la coincidenza di essere sottoposto a due bombardamenti. E per chiudere con questa veloce panoramica sul mensile che trovate in edicola con Il Sole 24 Ore, Momenti di Gloria, la rubrica dedicata ai giorni che ci hanno cambiato la vita, ma invenzioni, come dire, che sono sotto i nostri occhi. 1968, aria nuova negli uffici. Perché? Perché Robert Probst presenta il sistema aperto a pannelli. Infatti, fino agli anni 60, nei grandi uffici gli impiegati venivano di solito sistemati in file compatte di scrivanie, tutte identiche tra loro, tutte rivolte nella stessa direzione. Dopodiché arrivò appunto Probst, designer, direttore del reparto ricerca presso un produttore di mobili, che considerò questa disposizione un pessimo utilizzo del potenziale degli impiegati. L'ufficio odierno prosciuga la vitalità e quindi inventò l'ufficio modulare. La principale innovazione era il pannello divisorio, alto tra 120 e 180 centimetri, permetteva di personalizzare appunto l'ufficio, ed è quel pannello che ancora oggi è possibile vedere in molte open space, in molte aziende di oggi. Quindi questo tipo di modifica in realtà è del 1968 e da 41 anni oramai accompagna la nostra vita. Il tempo a nostra disposizione per questa mattina è finito, io vi saluto, vi do appuntamento naturalmente sabato prossimo e ringrazio Valeria Bernardi per la regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma. Ci sentiamo sabato prossimo.